Radio 24. Libera la voglia di fare. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Di Carlo Alberto Carnevale Maffè, Oscar Giannino, Mario Seminerio e Renato Cifarelli. Buongiorno cari ascoltatori di Radio 24, ci siete in ascolto? Noi siamo in diretta come tutti i sabati a tenervi compagnia dalle 10 alle 12 con Pare dei Conti della Belva, Oscar Giannino, Mario Seminerio e Carlo Alberto Carnevale Maffè, qui dagli studi di una solata Milano. E prima di come sempre illustrarvi i temi della trasmissione e chiedervi se volete telefonarci all'800 24 00 24, qualche parola che è doverosa per le vicende che colpiscono il Sole 24 Ore. Dovete sapere che i colleghi del Sole 24 Ore, giornale stampato, hanno assunto ieri la decisione di uno sciopero a oltranza fino a che non sarà avvenuta l'indicazione di un nuovo direttore, cioè al posto di Roberto Napoletano. I giornalisti di Radio Cor hanno assunto una decisione di un pacchetto di giorni di sciopero. I giornalisti della Radio 24 hanno deciso di continuare ad andare in onda, ma con il ritiro delle firme, e in maniera tale che ai giornali radio sia possibile diffondere quindi anche le note dei comitati di redazione. Perché? Perché ieri è avvenuto quello che era da attendersi, cioè sono state formalizzate, sono state resi note 9 avvisi di garanzia per i vertici dell'azienda, compreso il direttore, l'ex presidente, l'ex amministratrice delegata e direttore generale e altri manager. 2 sono i filoni di indagine, uno è quello relativo a false comunicazioni sociali. Il Sole è una società quotata, quindi ha obblighi rafforzati di trasparenza, e le false comunicazioni sociali sono relative a copie digitali attivate ma non reali, triangolando con una società a Londra. E c'è un filone secondo di indagine anche sul fatto che poi nella triangolazione e in queste copie digitali attivate ma non reali ci fossero appropriazioni indebite. Era dopo mesi inevitabile che questo avvenisse, il fascicolo era stato aperto e la Procura di Milano già ha raccolto molti atti, dati e testimonianze da parte di persone a conoscenza dei fatti. E io ieri ho espresso subito una totale solidarietà con i colleghi del Sole, con infinita amarezza. La mia infinita amarezza la sintetizzo in 2 considerazioni. La prima è questa: la credibilità dell'informazione economica da parte di ciascuno svolta sotto un tetto dipende dalla piena trasparenza di quel tetto, cioè della casa da cui la si conduce, perché altrimenti ognuno è titolato a sbertucciarti dicendo: ma che prediche fai, che critiche fai, guarda a casa tua. Questa è una condizione elementare che tutti i vertici di questa azienda dovevano avere in mente, qualunque sia la loro versione, sulla quale non entro, ci penserà la magistratura di cosa è davvero avvenuto, di chi era responsabile, del come e del perché. Ma la credibilità è la prima cosa da preservare, e gli obblighi di trasparenza sono ancora più forti in una società quotata. Si sapeva che sarebbero arrivati gli avvisi di garanzia, la Cosom non potrà protrarre molto il fatto di tenere quotata una società che non formalizza il bilancio 2016 da diversi consigli di amministrazione e dice che è in 2447, quindi bisogna immediatamente ricapitalizzarla e costituire di nuovo solidità patrimoniale. Io mi posso solo augurare che questa credibilità venga rafforzata, perché con troppo ritardo, bisognava già farlo prima, venga restituito 1 l'equilibrio di bilancio, 2 la solidità patrimoniale, ma 3 soprattutto anche solo il più lontano sospetto di mancanza di trasparenza che inficia radicalmente la credibilità di chi parla da questi microfoni e scrive su la carta rosa del Sole venga fugata. In assenza di questo, il valore non può che ulteriormente decadere della società, malgrado la sua importanza storica e malgrado il fatto che sia un bene non solo per l'azionista e per chi vi lavora, ma storicamente è stato per lunghissimi tratti un bene anche per il paese che il Sole potesse svolgere questa funzione. Ve lo dico perché è essenziale che capiate che non ci mettiamo anche questo sabato a fare le nostre critiche dimenticandoci che agli occhi di voi tutti c'è questo problema. Bene, allora parliamo brevissimamente di cosa parliamo in questa trasmissione. Parliamo innanzitutto di questa settimana fiscale, perché la tassa sugli impatriati, cioè questa tassa forfettaria capitale spacciata invece per flat tax, ha fatto impazzire molti, ci torneremo sopra. Del resto era una settimana che era iniziata con l'idea, secondo me frutto di un fraintendimento, che l'IRPEF bisogna ritoccarla anche per età del contribuente, quindi non ci facciamo negare nulla, quindi faremo innanzitutto una riflessione su questo. Se volete telefonarci al 800 24 00 24 per dirci se siete favorevoli o contrari ai 100.000 euro per i ricchi stranieri, ecco, fatelo pure. E poi però facciamo un supplemento di approfondimento sulla condizione delle banche italiane, innanzitutto le due venete, anche una riflessioncina su Siena, perché il negoziato con Bruxelles è bloccato, perché passano gli ultimi giorni a disposizione perché voi possiate prendere in esame l'idea se accedere o meno all'idea del ristoro del 15% se siete ex azionisti, se siete azionisti di Vicenza e Veneto Banca, e qualche constatazione sul fatto che se credete che arriva lo Stato ed è tutto a posto, beh, è meglio che non abbiate questa certezza, perché non è affatto detta, e anzi si è tornato a parlare dell'ipotesi che finiscano in bail-in. Ecco, parleremo di questo, ma oltre a questo, Mario, caro Alberto, questa settimana cosa segnalereste? Ma per quanto mi riguarda, stavo osservando ieri un eccellente commento di Enrico Marro sul Corriere della Sera, che praticamente come dire, ha ribadito concetti che il sottoscritto sul suo inutile blog martella da molti anni. Che inutile blog? Punto di riferimento. Vabbè, sì, punto di riferimento, c'ha la bussola incorporata. Cioè, in pratica, non so se avete notato, adesso c'è questo furibondo dibattito su come ridurre strutturalmente il costo del lavoro e a chi dal 1 gennaio dell'anno prossimo. Ai giovani, ai meno giovani, alle regioni del sud, a questo, a quell'altro. Perché? Perché piccolo problema. Scade la decontribuzione temporanea e non si è fatto nulla. Per cui adesso abbiamo scoperto che c'è questa esigenza. E però nei giorni scorsi un ballon d'essai proveniente da Palazzo Chigi, che in questi giorni, ma ne parleremo tra poco, ha introdotto la disciplina olimpica del lancio dei ballon d'essai, suggeriva la possibilità di aumentare l'aliquota intermedia IVA dal 10 al 13%. E con questo gettito ridurre i contributi sociali. Ora, se mai dovesse accadere, addirittura venivano citate come pezze d'appoggio tutta la vasta letteratura, no, di tassiamo i consumi, i patrimoni e non i redditi. Ora, se dovesse mai accadere una cosa del genere, ma credo che non accadrà, ognuno di voi che siete all'ascolto ha la facoltà ed è legittimato a incazzarsi, perché dopo anni passati a buttare dalla finestra o in altri luoghi decine di miliardi di mance e di bonus che non sono serviti a nulla e con una evasione IVA che continua a persistere, perché questa è la realtà, le statistiche europee parlano molto chiaro, adesso dire che bisogna spostare la tassazione dal lavoro ai consumi è un'emerita presa per il culo, senza usare perifrasi né francesismi. Per cui stiamo all'occhio su questa cosa, perché questa schizofrenia, come dire, questi spasmi sono destinati a moltiplicarsi avvicinandosi, che cosa? La legge di stabilità del prossimo anno. Abbiamo davanti ancora qualche mese, ma sicuramente di queste levate d'ingegno con pezze d'appoggio e supporto teorico accademico ne sentiremo ancora molte. Fate una cura di fosforo. Ricordate cosa è successo in questo paese ad alcune voci di spesa pubblica negli ultimi 3 anni. E tu che dici, Co? Io volevo dare un aggiornamento agli italiani su cosa leggono. Sono usciti l'altro ieri i dati di diffusione dei quotidiani e del digitale. E fammi fare una sintesi per capire che cosa succede, anche per mettere in contesto quello che sta succedendo qui nel nostro giornale. I dati sono purtroppo molto molto chiari. In un anno le principali testate italiane mediamente hanno perso dal 15 al 30%, tanto per farvi un'idea. Cioè Corriere della Sera, Repubblica, -27, -12%. L'unica che regge un pochino è la gloriosa Gazzetta, che in questo mese ha guadagnato un 1%, ma sull'anno perde comunque intorno al 9%. Ed è un bollettino di guerra, caro Oscar. Gazzetta, più De Laurenti sull'attacca. È così. In compenso invece i mensili regge, giusto per farvi capire le tracce, perché spesso non lo sanno. Sorrisi e Canzoni TV regge ancora con quasi 600.000 copie, anche se ne ha perso il 10%. Sui mensili invece devo proprio marcare il fatto che la posizione non scalfibile del Messaggero di Sant'Antonio, che ancora regge con 350.000 copie, non dirlo con ironia, è straordinaria, ha perso il 15%, ma regge meglio degli altri. Invece, buona notizia per me, sai che tifo un po' per quello, che il digitale invece cresce, ha fatto ancora più 9% la pubblicità digitale in questi ultimi 12 mesi, arrivando a quasi 2 miliardi e 200 milioni, e crescono anche tutte le componenti della editoria digitale, le news, l'editoria elettronica online, comunque fanno un più 7%. Come vedi, caro Oscar. No, però dopo che hai toccato l'argomento, sì, devi dirle anche per le testate quotidiane, però devi dare i numeri precisi. Vuoi i numeri precisi? Te li sembra do, che te stiamo do, diffondendo. Te li do. Io lo facevo in generale, cioè oggi nessun problema. No. Se allora lo faccio molto precisamente, Corriere della Sera in un anno ha fatto -27,8%, Repubblica quindi meno stiamo 12. Parlando diffusione, che somma copie media, stampate più digitale. Esattamente, digitale Italia più estero, per essere Italia precisi. Più. Allora, ripeti un po', Corriere. Corriere ha fatto -27,8%, Repubblica -12%. Stiamo parlando quindi Corriere oggi è 240.000 e Repubblica 207.000, quindi Corriere si conferma primo ma in discesa. Gazzetta tiene a 157.000 ma fa -9,4, la Stampa fa -15,4, il Sole 24 Ore -32,7%. Questo è oggettivamente il dato peggiore, purtroppo. Eh beh, perché c'è la correzione, perché l'ADS che certifica le copie, quelle 109.500 copie digitali attivate ma non accese realmente, sono state levate dalla diffusione. Questo è il motivo per cui c'è l'indagine in corso. Tra un minuto torniamo. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò, sì! I conti della belva. Ricordati che devi morire! Sì, no, mo me la segni proprio, non vi preoccupare. Ecco, questo non è il commento che il PD rivolge al governo Gentiloni, ma poco ci manca, più o meno, visto l'adattamento della settimana, perché il dibattito, caro Mario, intorno, siccome sto DEF bisognerà pur scriverlo, qualcuno dovrà scriverlo e firmarlo, il documento economico e finanziario, visto che il governo Gentiloni si trova di fronte una scadenza, ormai non lo dicono più al lingotto di ieri, però si vota nel 2018, quindi insomma tutto quello che Renzi ha provato a fare è rimbalzato. Si vota nel 2018. C'è un quadro pluriennale di finanza pubblica che è quella disegnata dall'ultima legge di bilancio, cioè quella del 2017, da Renzi. In due anni, 2018-2019, una quarantina di miliardi di euro di clausole fiscali e 33 miliardi di deficit in meno da portare a casa, perché visto che il deficit lo abbiamo ottenuto sempre di più, doveva essere 0,4 l'anno scorso del PIL nel primo DEF di Renzi, è stato 2,6, ecco, e quello è l'orizzonte. Però pare che il PD oggi consideri il governo Gentiloni, qualunque cosa dice il governo Gentiloni, vorremmo far qualcosa, no! Ecco, e allora Mario, come la mettiamo? Ma questa settimana mi ha colpito molto questa schizofrenia fantastica sul capitolo privatizzazioni, no? Voi sapete che il termine privatizzazione nel più generale pervertimento linguistico, sì, di neolingua, bravo, nel quale questo paese sta affondando, le privatizzazioni sono quando si prende un X% di una società pubblica, un 10, 15, 20%, la si mette in borsa e si dice che è un trionfo. Questo che cosa determina? Senza mollare la governance, senza mollare la governance, la contendibilità, esatto, del mercato, esatto, così solo per, esatto, fare cassa. Quindi non si privatizza niente, però per, si tirano su risorse. No, ma per scheggiare, come dire, scalfire uno 0,00 qualcosa per cento dello stock di debito pubblico, dopodiché si arriva e si dice: così facendo abbiamo aumentato l'efficienza del sistema. E uno, vabbè, dice, sarà. Ora, però, siccome stiamo rapidamente arrivando, come dire, a fine corsa, a fine pasto, adesso c'è il capitolo di come ridurre il debito pubblico italiano a mezzo delle privatizzazioni. Allora, siccome domenica scorsa c'è stato un lancio, un'esclusiva, diciamo, uno scoop fatto proprio dal Sole, nel quale praticamente si rilanciava l'idea di fonte governativa, tutti questi spifferi governativi, diciamo, con i quali si prende meglio il raffreddore e l'influenza, di prendere un'altra quota di Poste Italiane e di cederla alla Cassa Depositi e Prestiti. Quindi si passa dal Tesoro alla Cassa Depositi e Prestiti. Diciamo, c'è ancora un 30% cedibile, solo che la Cassa Depositi e Prestiti non ha i dindi. Perché questo è il problema, cioè contrariamente a quello che davvero credono in molti. Ecco, perché la cassa... l'hanno sempre considerata la cassaforte italiana, no, il tesoretto è... implicito. Cassa... Vogliamo dire qual è la posizione patrimoniale di Cassa Depositi e Prestiti? E qual è la posizione di liquidità? Sì, praticamente è ingessata completamente. Allora, siccome la Cassa Depositi e Prestiti non è il fondo sovrano di cui qualcuno farnetica, potrebbe esserlo magari andando a leva, facendo un po' di scatole cinesi e quant'altro, con gravi rischi per la salute pubblica, si è detto, ah, che cosa facciamo fare a Poste? Facciamo fare un pagamento di un dividendo straordinario, perché alla fine Poste cioè, può permetterselo, certo, guadagna può molto bene, poi distribuendo azioni, la posta una volta ogni tanto, diciamo, con il servizio universale, avendo segmentato i recapiti che sono fuori dal servizio universale, con delle tariffe che manco da bulgari, quindi alla da fine Bulgari nel senso di gioielliere, da Bulgari nel ecco, senso di gioielliere, non dei cittadini della Bulgaria. E allora pare che Poste abbia questo imponente, diciamo, dotazione per pagare sto miliardo. Dopodiché, siccome Cassa Depositi e Prestiti possiede già il 35% di Poste, andrebbe a incassare pro quota questo dividendo straordinario, con il quale si comprerebbe un'altra fettina di Poste. Mi sa un po' di gioco delle tre carte. No, ma è bellissima sta cosa. Infatti, tu guarda il caso, nei giorni dopo, in borsa, il titolo Poste Italiane ha strappato, uscendo dalla sua condizione di grigiore congenito e perenne. Vabbè. Poi che cosa è successo ieri? Altro spin, altro ballon d'essai. Praticamente l'idea è quella di privatizzare il 15%, osservare, privatizzare il 15% della Cassa Depositi e Prestiti. A chi? Perché? Cioè, prima magari diamo un altro 30% di Poste alla Cassa Depositi e Prestiti, poi prendiamo il 15% di Cassa Depositi e Prestiti e lo diamo non si sa bene a chi, ai fondi, pensione, alle fondazioni. Questi sono tutti test, no, dell'opinione, certo, pubblica, o di chi deve sentire, non esattamente l'opinione pubblica. Però in mezzo a tutto questo frastuono, a questa schizofrenia che richiederebbe una terapia farmacologica, svetta la voce del sottosegretario allo sviluppo economico Antonello Giacomelli, che ha detto: a me sta bene cedere un'altra parte di Poste Italiane alla Cassa Depositi e Prestiti, ma per scongiurare la privatizzazione. Perché voi sapete che il PD, essendo incredibilmente polifonico, si dibatte tra questa sorta di blerismo fuori tempo massimo e il socialismo de noantri. Per cui non si deve privatizzare, ma si deve privatizzare. Per cui, in attesa, la chiamiamo che... privatizzazione morbida, come dice Giacomelli. È morbida, è cioè, morbida, sì sì, ma non bisogna, poi basta con questo liberismo sfrenato. Cambiamo mano dalla destra alla sinistra e così saremmo salvi, avremo salvato capra e cavolo. Fammi dire però che trattare le azioni di un'azienda quotata come se fosse patrimonio di famiglia di un partito, secondo me è proprio inaccettabile. Posso dirti che è inaccettabile, perché qui stiamo alla fiera dell'insider trading. Cioè, Oscar, ma è possibile? Adesso sai come mi capita di fare un po' di esperienza della governance delle quotate, ma insomma io ho una concezione calvinista di quel mestiere. Devi essere trasparente, non devi toccare nulla, devi garantire piena simmetria informativa. Qui la cultura del governo è quella che le leggi si fanno ma valgono solo per gli altri. Ma naturalmente sono d'accordo e ovviamente oggi non riesco a evitare di pensare, perché si parlava appunto, no, in una società quotata, quello che volete, eccetera, eccetera. Tu hai detto il PD che considera quella società come se fosse sua. È lo spoil system. Lo so, naturalmente. Allora questo, oggi mi viene da applicarlo a Confindustria al Sole 24 Ore, visto che ha fatto una IPO chiedendo i soldi ai retailers e non agli investitori istituzionali sin dall'inizio. Però oggi è il mio riflesso condizionato, e chiedo scusa agli ascoltatori. Cercate anche di capire, però, che vuol dire anche essere, ricordarsi che bisogna avere una cosa. Però certo, io l'unica cosa è che oramai ho rinunciato all'idea, Mario e Carlo Alberto, di poter criticare il fatto che queste appelli al risparmio privato, di questo si tratta, tutte queste operazioni sono appelli al risparmio privato da dare allo Stato, spacciate come privatizzazioni, che da quando questa cosa è accettata dai giornali e dall'informazione è stata la fine di ogni privatizzazione in Italia. E questi sono dei punti di non ritorno, cari ascoltatori, perché la neolingua, cioè quella di Orwell 1984, e vi ricordo che delle prime tre affermazioni sintetiche che erano impresse, no, sul palazzo del grande governo del Grande Fratello, di cui non si sapeva nemmeno se avesse un'identità fisica o se fosse la creazione del partito collettiva, questo è, ecco, la prima di quelle tre affermazioni era: l'ignoranza è forza. Ed è infatti questa la base della neolingua, con cui si perverte il significato delle cose. Esatto. Ed è esattamente questa la dimensione in cui troppe vicende economiche italiane oramai si propongono in questo modo. È proprio una perversione epistemologica, linguistica, ma sotto il substrato è levare dal tavolo le opzioni vere, i nomi delle cose di cui si dovrebbe parlare diventano i nomi che dicono altre cose. Sì, sì. Fammi dire anche un'altra cosa per trasparenza: c'è un equivoco mai chiarito sul ruolo e garanzia dello Stato rispetto ai risparmi raccolti da Poste Italiane, perché è ancora il più grande intermediario finanziario d'Italia. Da un certo punto di vista c'è un grandissimo equivoco alla testa dei cittadini su alcuni strumenti che hanno la garanzia dello Stato e su altri invece che sono assolutamente strumenti di mercato e vanno dai fondi immobiliari a dei normalissimi fondi gestiti a livello internazionale. Ecco, c'è un grandissimo equivoco nella testa della gente rispetto al fatto che entrare in Poste vuol dire entrare in una specie di Santa Santorum in cui qualsiasi cosa si tocca è garantita dallo Stato italiano, posto che lo Stato italiano non ha il patrimonio per garantire alcunché, fammi dire, Oscar. Ecco, al massimo si fa garantire dagli stessi risparmi che pretenderebbe di voler garantire. La verità è che un giorno dovremo fare una bella operazione verità su quello che gli italiani continuano a credere o gli fanno credere, su quello che invece andrebbe detto rispetto ai loro risparmi. Ah, ma forse parlavamo giusto di quello tra un quarto d'ora, vero? Esattamente, anzi prima che tra un quarto d'ora, perché torniamo subito tra un minuto, però prima parliamo della tassa forfè. Avete parenti ricchi da far venire in Italia? Fateli venire, ci sono due condizioni venire in Italia: se siete ricchi e se volete morire in sto paese non si spende niente, cioè a essere ricchi e a morire noi siamo il paradiso fiscale, è questo, esatto, il fatto, e vogliamo dircelo. Vabbè, ma così faremo governare quello del cappottino diabete, allora. Chiusa la parentesi, torniamo tra un minuto. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Eccoci qui, tornati in diretta alle 10.34 primi e 15 secondi per parlare di quello che questa settimana ci ha riservato per la fervida fantasia dell'Agenzia delle Entrate, questa proposta che in realtà aveva suscitato l'interesse solo di pochi addetti ai lavori, perché era già prevista nella legge di bilancio 2017. Nella legge di bilancio 2017 tuttavia si proponeva questa norma, ma giustamente, come sempre in Italia, si riservava agli atti esecutivi attuativi demandati all'Agenzia delle Entrate. Se non che, sorpresa, cari compari, arrivano questi documenti prima del previsto, perché l'Agenzia delle Entrate, che è affamata di entrate, appunto, assetata, esce con un comunicato e dice: siamo pronti con la flat tax per i con le risate. Daranno il premio all'ufficio stampa dell'Agenzia delle Entrate per quel giorno. Ieri però siamo riusciti a far recedere almeno da quella denominazione la comunicazione ufficiale dell'Agenzia delle Entrate. Non è stata più indicata una flat tax. Però loro scrivono: la flat tax per i ricchi stranieri, conoscete la disciplina, ve la sintetizzo, diamo ai soggetti che appartengono al segmento wealth, quindi ricchi che in 9 anni su 10 ultimi precedenti abbiano risieduto il prodotto reddito all'estero, la facoltà di scegliere residenza in Italia, automaticamente, anzi elettronicamente chiedere l'accesso a questo beneficio, e il beneficio consiste nel fatto di avere una imposta capitaria definita a prescindere sia dal reddito realizzato fuori, sia dai loro relativi cespiti, sia dal suo ammontare, definita in 100.000 euro l'anno più 25.000 euro per appartenenti allo stesso nucleo familiare che abbiano redditi propri o in splitting per 15 anni, fino a 15 anni successivi se persiste la residenza nel nostro paese. Ecco, questa è la proposta. Immediatamente partono i giornali italiani, quasi tutti cascano nella cosa, ecco la flat tax per stranieri, tentiamo disperatamente, a cominciare dal Sole che ci casca anche lui a dire la verità, piccoli e nanetti come siamo, il professor Dario Stevanato, io, Mario, tutti noi, insomma quattro nanetti, però ci proviamo da subito a spiegare cosa non è questa, non è una flat tax. Però io non voglio straparlare io, nel senso che mi limito a dire che la flat tax, per capirci, cari ascoltatori, è una imposta proporzionale, capite, sono imponibili invece che progressiva, proporzionale, però ci deve essere l'imponibile e ci deve essere la proporzione, è comunque una divisione, cioè, capito? Matematicamente, esatto. Sì, è una cosa complessa, c'è una frazione, c'è un numeratore, c'è una... mentre qua stiamo parlando qua di non c'è un'aliquota proporzionale perché non si fa riferimento all'imponibile né ai tipi di cespiti. Dopodiché esiste forse un problema sia per il beneficiario, perché non è che ogni Stato si inventa una tassazione di un reddito prodotto altrove, perché il paese fonte, ai quali siamo legati con una serie di trattati sulla doppia imposizione, può dirci: no, scusa, tu vedi di fare quello che vuoi, esatto, in Italia, esatto. Ma il reddito qua cambia da paese a paese. Molti agli expat riservano o detrazioni o ritenute, esatto, in una scala più o meno elevata a seconda di quali siano i rapporti con l'ordinamento del paese in cui si va, ma non è che tutti stanno a braccio con sette e dicono: ma sì, ma che bella trovata, sì, esatto, non ci dare portare niente via imponibile. Quindi, dagli italiani, questa roba qua, cari colleghi dei grandi giornali, sembra che non vi abbia interessato, però è una questione un po' fondamentale, per così dire. Certo, a meno che non li si voglia attirare dai quattro angoli del mondo in cui regna l'opacità e con cui non abbiamo trattato sulla doppia imposizione, nel qual caso l'Agenzia delle Entrate forse è meglio che si ponga qualche problema, però forse ci può anche essere qualche problema nell'ordinamento italiano, forse sia per l'articolo 3 che per il 53, nel senso che se c'è un giudizio incidentale la Corte si dovrà porre il problema. Ci sono tante cedolari secche nel nostro paese, noi abbiamo frazionato il modo in cui si fa l'imposizione sul reddito, se avete una casa a seconda del contratto che ci avete potete beneficiare di un'aliquota proporzionale o meno a seconda del contratto, perché il governo ne vuole incentivare uno di un tipo piuttosto che di un altro, e questo è un punto. Lasciamo perdere sul reddito d'impresa, si può pagare 0, 5, 15%, 24%, ma sono cedolari, cioè sono comunque proporzionali rispetto a un imponibile per tipo di cespite in quel caso. Questa è una roba che riguarda tutti i cespiti indifferenziati che fanno il reddito persona fisica, non ha come riferimento un imponibile né un'aliquota, è una somma fissa. Solo per dirvi di cosa parliamo, poi si può avere che sia un'idea bella, un'idea cattiva. Nella stessa settimana, secondo me per un fraintendimento dovuto a un errore espressivo del PD, il PD ha fatto capire che voleva che pensava anche a una tassazione dell'IRPEF distinta per età del contribuente, che ripeto è un problema costituzionale enorme, è una lieve aberrazione messo così, nel lieve, senso giusto che proprio, ma giusto lieve. O per genere magari, no? Perché, esatto, altro io lo sostengo da anni, ma per i contributi, perché i contributi hanno una logica diversa rispetto alle imposte. Però detta così sono riusciti ad affossare anche un pezzo di ragionamento che poteva essere interessante. Però detto tutto questo, questo è ciò che ci ha riservato la settimana. Noi abbiamo deciso di chiamare il professor Andrea Giovanardi, che insegna a Trento, per vedere che impressione a lui ha fatto questa settimana. Buongiorno e grazie di aver accolto il nostro invito innanzitutto. Buongiorno e vi ringrazio dell'invito. Allora, che impressione le ha fatto questa settimana? Allora, beh, questa settimana per la verità non c'è stato, non ci sono stati solo i provvedimenti di cui voi avete parlato, ma c'è stata anche quella sorta di addizionale, imposta addizionale di scopo sui redditi sempre, già. Finalizzata a finanziare la pedemontana. Sì. Sto sì. parlando della mia regione, cioè del Veneto. Quindi io infatti è una settimana. Ne ho parlato in una cui, trasmissione, sì. Sì. In cui ci sono tre novità, non due, però insomma, per quel che riguarda le novità di cui ho sentito che lei, Oscar Giardino, ha parlato, allora io condivido, cioè questa, su questo non c'è dubbio alcuno, questa non è una flat tax, non può esserlo per il semplice fatto che, giustamente come dicevate, beh, la flat tax prevede è un'imposta proporzionale con un'aliquota unica che ovviamente è commisurata al reddito. Questa è invece una imposta capitaria, cioè un'imposta dovuta in misura fissa a prescindere dal reddito, tanto che il citato e amico Dario Stevanato, giustamente secondo me, ha anche il dubbio che questa sia un'imposta sul reddito. Questo è un tributo sui generis che, prescindendo dal reddito, si può sostenere, secondo me si deve sostenere, anche è così, questa non è nemmeno un'imposta sul reddito, con tutta una serie di conseguenze problematiche che ne derivano. Beh, la prima è già stata accennata, ma vedo anche che anche i giornali, diciamo, non si occupano del diritto tributario, questa domanda la fanno. Beh, qui c'è un evidente problema di costituzionalità, perché i residenti che assoggettano a tassazione i redditi ovunque prodotti, beh, adesso si vedono discriminati nei confronti del residente non domiciliato, insomma dell'impatriato, perché quest'ultimo ha una tassazione forfettaria di 100.000 euro. Quindi un problema di discriminazione, un problema di articoli 353,1, secondo me si pone, e non mi convincono le giustificazioni che ho sentito o che ho letto sui giornali. Una di queste è, non so, la Corte Costituzionale, peraltro a me non risulta, che dovrebbe considerare la posizione complessiva del soggetto, siccome questi soggetti sono particolarmente facoltosi, evidentemente avranno un tenore di vita particolarmente alto, con conseguenti ricadute positive su altri comparti impositivi, non so, pagheranno più IVA, ma questo per la verità vale anche per i facoltosi residenti, e quindi non mi sembra che sia un'argomentazione dirimente. Infatti. Quindi il primo problema è un problema di costituzionalità. Qui assistiamo a una deroga al principio di tassazione mondiale, per cui appunto il residente paga, fatto salvo ovviamente la possibilità di dedurre i crediti per imposte assolte all'estero, paga su tutti i redditi ovunque prodotti. D'accordo? L'altro problema è un problema applicativo, ma di non poco conto, perché nella norma non c'è nessun, ma nemmeno nel provvedimento dell'agenzia ovviamente, non c'è nessun riferimento alle convenzioni, e quindi si pongono dei dubbi in merito all'applicabilità appunto delle convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni. Mi tu aggiornati, ma se pensano a una misura che annunciano in questo modo, che scateni interesse e adesioni, io penso che, siccome stiamo parlando di gente che munita di professionisti tributari nei paesi in cui producono reddito, la prima cosa che fanno è vedere, ma vediamo un po' gli incentivi. Cioè, questa incertezza pesa come un freno enorme al beneficio reale per chi dovesse aderire. Ma guarda, io penso questo. Allora, lo ammette anche Tommasini sul Sole 24 Ore. Cioè, questo nuovo tributo, questo nuovo istituto, chiamalo come volete, funziona bene, perfettamente o bene, nel caso in cui la tassazione all'estero di questi soggetti sia nulla o di poco conto. Esatto, paradisi. Quindi in questo caso, e cioè ovviamente sto evocando scenari paradisiaci, in questo caso chiaramente la norma funziona e come. Ma tra l'altro è sfuggito, non è sfuggito, ma forse non vorrei che sfuggisse, che c'è un altro vantaggio assolutamente incredibile ed ingiustificato, ed è l'esenzione da qualsiasi obbligo di monitoraggio. Cioè il famigerato quadro RW, che noi tutti residenti veri, non residenti diventati, dobbiamo compilare qualora abbiamo delle attività all'estero di carattere finanziario o non, di carattere non finanziario, beh, questi signori che pagano 100.000 euro non devono nemmeno presentarlo all'agenzia. Quindi possono verificarsi scenari in cui arrivano soggetti che non stanno scontando alcuna imposizione all'estero o imposizione in misura ridottissima, qui su quei redditi pagano 100.000, poi non devono comunicare alcunché all'Agenzia delle Entrate, quindi non potrà nemmeno controllare se questi soggetti cosa hanno all'estero e così via. E quindi ci sono anche, si possono anche evidenziare dei rischi di utilizzo abusivo di questa norma. Insomma, non occorre grandissima fantasia, no, appunto, per pensare a... Apparentemente la maglia che si lascia aperta alla regolarizzazione, perché non si tratta neanche di emersione, visto che non ne sappiamo niente, esatto. Di patrimoni illecitamente costituiti all'estero, non sto parlando di patrimoni, certo, e asset lecitamente detenuti e che producono redditi dichiarati all'estero, a me sembra una cosa di fronte alla quale veramente mi gratto la testa. Una roba da stato pontificio, un'indulgenza plenaria, ma... una specie di grande, come dire, lascia passare universale, poi... una vendita. E poi facciamo il solito moralismo, capito? No, su Apple, cioè, sul Lussemburgo, sull'Irlanda e su queste cose dove almeno comunque c'è un minimo di regolamentazione. Questa sembra una norma per attrarre i delinquenti del pianeta. Adesso, giusto, no? Hai usato il termine. Hai usato dire, cioè, deve. Posso dirvi, a me sembra una norma pensata per attirare i Valentino Rossi non ancora scoperti. Sì, esatto, infatti, sì, le celebrità, i talenti del Kazakistan. Le celebrità che hanno dei collegamenti significativi col territorio italiano e potrebbero avere l'interesse, risultano ovviamente residenti da altre parti e possono avere l'interesse, in ragione dei collegamenti che hanno, di ritornare dopo, anche ovviamente ci vogliono 9 anni di residenza all'estero, però potrebbero avere tranquillamente l'idea di ritornare. Realisticamente questo... l'ipotesi più probabile è proprio la sua, ecco, cioè stiamo parlando di qualche campione, ecco, che sta a Monaco altrove e dice torna, dai, su, non ti rompiamo le scatole, non ti chiediamo dove l'hai messa, ma insomma torna. Ecco, questo è un minuto di pausa e torniamo con il professor Giovanardi. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Eccoci tornati qua in studio con i compari dei coi mesti compa oggi mesti compare no, dei monti, no, perché tanto abbiamo dato un orso, le belve che invitano gli orsi, quindi ci divertiamo adesso. Divertiamo. Vabbè, poi adesso lo spieghiamo poi chi è l'orso che è entrato nella nostra tana. Però cari ascoltatori, avrete sentito, insomma, abbiamo tentato di spiegarvi bene che cos'è questa norma. Questo tributo capitario che prescinde dai redditi, prescinde dagli imponibili, anzi dice non vogliamo sapere niente. Nel frattempo ci arriva una segnalazione che le dà ragione, professor Andrea Giovanardi, cioè la segnalazione di un manager italiano che stava all'estero da 20 anni e che dice no, io lo utilizzo, anzi benissimo, però ecco, più o meno come si diceva, è un appello a quel tipo di persone lì. Però io le devo chiedere anche la sua opinione su l'ipotesi di differenziare per età anagrafica le aliquote dell'IRPEF, presentata come idea dell'Italia non per giovani, quindi diamo un segnale. Io ho proposto anni fa, io non solo io ma altri anche che scrivono su oggi.info, che si potesse fare per i contributi previdenziali un calcolo attuariale diverso, perché lì c'è un problema specifico dell'utilizzo dei contributi. Con l'equilibrio attuale c'è la stessa somma nell'arco vitale, rispetto però a metodi che debbano essere resi omogenei per il ricalcolo contributivo per le generazioni troppo precedenti che utilizzano il contributo anno per anno, visto che siamo un sistema a ripartizione versato da chi non avrà lo stesso trattamento a parità di montante, avrà tutt'altri rendimenti nell'assegno, e quindi prevedevamo un calcolo di quel tipo. L'IRPEF è tutt'altra roba, però lei che direbbe di un IRPEF differenziato per età del contribuente? Un ragionamento di questo tipo sui contributi previdenziali può reggere, poi ovviamente qui diventa... Si aprirebbe un grande capitolo, no, ma lo dico solo per distinguere. Sì, per l'IRPEF invece non regge per nulla, su questo vorrei essere anche sufficientemente categorico. La proposta mi sembra completamente sbagliata, per la semplice ragione: non si può collegare allo status anagrafico la tassazione sui redditi, cioè lo status anagrafico non può essere l'unico elemento che condizioni l'imposizione o che la modifichi o che la vada a differenziare. Perché? Perché dal punto di vista della capacità economica i redditi che va a percepire la persona più giovane sono assolutamente identici a quelli che percepisce la persona adulta o la persona anziana. Quindi discriminazioni di questo tipo non mi sembra abbiano diritto di cittadinanza nell'ordinamento. Peraltro, in questo senso si pone anche la Corte Costituzionale, basti pensare alle sentenze sui pensionati del 2012-2013, sui dipendenti pubblici, ma basti pensare anche alla Robin Hood Tax, cioè nel momento in cui si è voluto tassare con un'addizionale i petrolieri, perché costoro avrebbero avuto un sovrapprofitto o sovrapprofitti in quel periodo, e la Corte Costituzionale ha rispedito il tutto nel 2015 al mittente. Era la cosiddetta Robin Hood Tax, di cui Tremonti andava tanto fiere. La Robin Hood Tax. La Robin Hood Tax è saltata perché discriminazioni di questo tipo non stanno in piedi, perché le discriminazioni qualitative si fanno laddove si possa ravvisare una diversa capacità contributiva. Qualcuno ha scritto in questi giorni, ma guarda che delle differenziazioni collegate alla gioventù in qualche modo ci sono già, pensiamo, non so, al regime dei minimi. Sì. Però, attenzione, sono provvedimenti, o le start-up, ma sono provvedimenti completamente diversi. Primo, perché non si collegano in modo automatico solo a una circostanza, cioè l'età. In secondo luogo sono evidentemente, rispondono a finalità diverse che possono anche di incentivo, e inoltre eliminare le barriere all'entrata per chi volesse, o ridurle ovviamente per chi volesse partire con un'attività professionale. Inoltre sono temporanee e per i minimi, per esempio, qualora io supero i 30.000 euro, io giovane supero i 30.000 euro, mi vengo tassato tanto quanto gli altri. Quindi questi precedenti non giustificano in alcun modo un'idea di questo tipo. Apprendo tuttavia che il 22 marzo il professor Marchetti, che è peraltro un collega della LUIS, e il professor Monti presenteranno un paper proprio che ha ad oggetto questa idea, che io chiaramente non condivido. Si pone anche un problema di finanziamento, cioè chi paga aliquote, certo, per i giovani. No, no, ma prima ancora, insomma, dell'equilibrio rispetto ai soggetti, qui c'è un principio di diritto grande come una casa. L'articolo 3, adesso uno può leggere l'articolo 3 come vuole, però l'articolo 3 della Costituzione mi sembra, da questo punto di vista, un presidio. La stima non ci ha fatto mancare nulla. Io ho criticato anch'io in una trasmissione, ho spiegato agli ascoltatori veneti il tributo di scopo, il tributo di scopo per la pedemontana, sottolineando soprattutto che però che sono innanzitutto i concessionari privati che non trovano i soldi per farla. CDP ha detto: io i soldi non ce li metto, perché i ritorni attesi su quell'opera che nasce nel 1990, 27 anni fa, non sono assolutamente credibili. Beh, se questa è la condizione, non ci mettono i soldi i concedenti privati e gli attori pubblici a collarla sulle spalle del contribuente veneto con un'imposta di scopo, a me sembra del tutto inaccettabile. Però Zaia ha detto che c'è il problema del patto di stabilità, no, che gli mancano i soldi, non che è lievitato in corso d'opera. Ma al di là di quello, la vera obiezione è: allora cosa fai? La lasci com'è? Beh, insomma, discutiamone. Però intanto grazie ad Andrea Giovanardi per essere stato con noi. Ci sentiamo dopo. Il segnale orario vi è offerto da Italia Legno Energia, Fiera di Arezzo, 24-26 marzo. I 100 secondi di Radio 24, Il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Della belva. Eccoci tornati in diretta, cari ascoltatori di Radio 24. Qui c'è stato un momento di brivido perché prima, chinandomi sotto, ho trovato dei pezzi di, evidentemente, di confezioni di sex toys. Ci siamo tutti interrogati, ma erano, voglio tranquillizzarvi, erano i resti della confezione delle manette con cui ieri pomeriggio Giuseppe Cruciani, per chi lo segue, è andato travolgentemente in onda. Naturalmente ci ha regalato un momento di, ci ha tirato sul cuore, perché era ovvio che si riferiva agli avvisi di garanzia del Sole 24 Ore, e presentandosi in divisa da galeotto con le manette è riuscito a farci sorridere. Solo che gli aggeggi che ha portato, qui ci sono delle bionde che mi guardano e io adesso a questo punto c'ho un po' il pensiero deviato rispetto a quello che dobbiamo invece affrontare come argomento. Prima due brevi telefonate ai nostri ascoltatori e poi, cari ascoltatori, vi parliamo del tema: quanto si sta complicando la trattativa con Bruxelles per Popolare di Vicenza e Veneto Banca? Che rischi ci sono veri? Avete letto, no? Sui giornali. Attenzione, la cosa si potrebbe tanto complicare da riaprire il discorso non della ricapitalizzazione preventiva, bensì della terribile frase bail-in. Cerchiamo di capire meglio e cerchiamo di capire se avete i titoli in mano, se davvero non vi fidate del ristoro offerto e che cosa rischiate se però prendete questa posizione, perché alcuni vi dicono: ma no, tanto ci pensa lo Stato, entra lo Stato. Non siamo ancora lì, ecco, ci occupiamo di questo tra poco, ma intanto sentiamo cosa ci chiedono. Carlo da Milano innanzitutto. Carlo, buongiorno e grazie di averci chiamato. Carlo, c'è? Eccoci. Sì, pronto? Pronto, ci dica, pronto, ci dica. Buongiorno, saluto tutti. Ho paura di essere indietro di una puntata, però, perché io volevo intervenire per quanto riguarda questa flat tax. No, no, non è indietro di una puntata, perché noi la prima mezz'ora abbiamo esattamente parlato col professor Giovanardi della flat tax, e quindi lei è assolutamente in tema. Lei è un ricco straniero che vuole venire in Italia a pagare le tasse, dico bene, Carlo? Siccome ha introdotto l'argomento nuovo, cioè della... Non si preoccupi, era per non perderci gli ascoltatori. Lei che ne pensa della flat tax? Niente, allora mi sono collegato alla trasmissione un pochettino in ritardo, non vorrei arrivare tardi, era semplicemente una considerazione. Dica. Di questo tipo, senza voler fare nessuna polemica, sappiamo per quale motivo è stata introdotta questa flat tax, cioè la voglia di fare cassa è tanta. Esatto. Una piccola considerazione, tanta attenzione nei confronti di uno straniero per attirarlo in Italia. Sì. L'avrei gradita dopo aver visto da parte dell'Agenzia dell'Entrata un minimo di considerazione nei confronti di quei pensionati che sono costretti, e sottolineo costretti, ad andare in Portogallo per tirare fine mese. Lei adesso con questa considerazione non fa altro che dire uno degli argomenti che abbiamo trattato prima con il professor Giovanardi. L'articolo 3, cioè, invece sono io che la ringrazio, perché lei ci dà testimonianza del fatto che il nostro ragionamento teorico sull'articolo 3, cioè il principio di eguaglianza, E beh, non è così scontato che questo tributo, che non è una flat tax, è un tributo capitario, extraordinario, che non guarda né all'imponibile né alle aliquote, eccetera, eccetera, però questo tema lo pone. Altro che, Carlo, secondo me hai perfettamente ragione, ti ringrazio. Sentiamo invece Massimo da Napoli. Massimo. Buongiorno e grazie per l'intervento. Sì. Allora, volevo porre una domanda, ma prima una considerazione riguardo alla privatizzazione, l'eventuale privatizzazione di Cassa Depositi e Prestiti. Volevo dire se questo non poteva essere, se non potesse essere ancora l'ennesimo regalo ai soggetti finanziari italiani, banche e assicurazioni in primis, che attraverso il sistema di scatole cinese, acquistando il 15% di Cassa Depositi e Prestiti, di fatto acquistano il 100% di Poste Italiane e quant'altro. Un po' come è successo con la Banca d'Italia, dove hanno privatizzato le banche italiane negli anni 90, sapendo che le banche italiane pubbliche avevano le quote partecipative azionarie nella Banca d'Italia, e di fatto poi hanno acquistato a costo zero. Massimo, scusa, perché io ho già capito dove vai a parlare, però la privatizzazione delle banche pubbliche, l'ex BIN in Italia, gli ha dato loro forza e non debolezza. La cosa che vi raccontano è che quindi si è privatizzata la Banca d'Italia, si dimenticano di dirvi che l'attribuzione delle quote di partecipazione alle banche, intanto diventate imprese a controllo privato, non ha nessun effetto per statuto, è neutralizzato dallo statuto della Banca d'Italia. La Banca d'Italia è pubblica, a chi vi dice il contrario, regalatevi lo statuto della Banca d'Italia e fatevi una risata. Dopodiché, Massimo, come abbiamo spiegato, qui non si privatizza proprio niente, è un appello al risparmio privato a incamerare soldi dando valutazione di asset pubblici il cui controllo, gestione, cioè resta tutto pubblico. Mario, se si dovesse cedere il 15% di CDP, è chiaro che il controllo di CDP resta in capo al tesoro, cioè, allora qual è l'appeal per gli acquirenti privati? Uno solo, i dividendi. Ora si dice, ma CDP ha pagato 850 milioni di dividendi l'anno scorso. Sì, come? Perché? Certo. Consideriamo quali sono le partecipazioni che CDP e ha in pancia con e cui la liquidità. CDP, esatto, le logiche a fare partecipazioni che non sempre sono da un fondo di investimento che massimizza i ritorni degli investimenti. Cioè, vogliamo dirlo? CDP non è una utility che produce un flusso di cassa regolare che si può distribuire mediante dividendi. Terna, se la CDP, per esempio. Esatto, se la CDP sostiene attività che assorbono risorse finanziarie pesantemente, fa attività di venture capital o comunque pesanti attività di investimento, la CDP si trova in un contesto di illiquidità. Come si fa a pagare un dividendo se sei illiquido? Cosa fai? La metti a leva? Tiri più indebitamento? Cioè non ha senso, esatto, questa stessa idea di cedere un 15% che non servirebbe a controllare alcunché, a meno che ovviamente, come diceva Cuccia, i voti pesino e non si contino. Però sul piano strettamente industriale CDP non è una utility e quindi il dividendo elevato e stabile non lo vedo. Non è lo una vedo. Condivisione di una rendita pubblica negativa, se posso, esatto, dire. Bene, abbiamo anche dato una risposta a Massimo e adesso è entrato in studio prima, infatti che ha cresciuto il tasso di belvagine presente nello studio, Gianluca Codagnone, che è Managing Director di Fidentiis, che in questo anno in cui l'ex presidente Consiglio Renzi ha detto che l'informazione non si è occupata, caro Mario, caro Carlo e non caro è stata Gianluca, consapevole dei non problemi delle banche, cioè, un problema di consapevolezza. Ma il problema è che lui non ci ascolta e infatti si vede. Invece ce ne siamo occupati tante di quelle volte che spesso torniamo alla Gianluca Codagnone e oggi la questione di cui parliamo, poi magari un minutino lo dedichiamo anche a MPS che è sullo sfondo, ma la cosa di cui parla è quella di Vicenza e di Veneto. Io chiederei a lui innanzitutto che impressione aveva di quello che i giornali hanno scritto questa settimana della complicazione nel rapporto non tanto con la BCE per la parte di regolazione europea della manovra che riguarda quella in corso le due banche, quanto per la DGCOM, la direzione generale che si occupa del sì o del no per quello che riguarda no agli aiuti di Stato. Che impressione hai? Intanto buongiorno. Diciamo nell'accedere ai vari strumenti che consentono di rimettere a posto una banca che è in stato di crisi, su tutto questo processo, diciamo, insistono vari attori. Da una parte c'è l'ECB, che più o meno si occupa del fatto di stabilire quanto siano i livelli di capitale che sono necessari. I SIB per gli altri umani, ah, sì, la banca centrale, sì. Solo perché cioè, io vabbè, faccio vabbè, il traduttore istantaneo. Non interrompiamolo ogni volta, sembro Sirio, sembro Sirio umano. Ero, mi sono distratto un attimo con le foto che ha lasciato. Guardami negli occhi, Gianluca. Io lo sapevo che bastava mettere la bionda qua e succedeva. Mi sono distratto un attimo con le foto che ha lasciato Cruciani. Esatto. E, da una parte c'è la Banca Centrale Europea che si occupa, diciamo, di stabilire il capitale necessario per la prosecuzione dell'attività bancaria, dall'altra parte c'è la Direzione Generale della Competizione dell'Unione Europea, che invece è l'Unione Europea, dell'Unione Europea, che si occupa di tutti i profili che riguardano gli aiuti di Stato. Esattamente. Ora, queste due istituzioni, da una parte c'è un organismo, chiamiamolo così, più tecnico, che è la Banca Centrale Europea, che si occupa di stabilire quali siano i livelli di capitale necessario per ogni banca sorvegliata per proseguire l'attività. E ha l'obiettivo della stabilità finanziaria, quindi sì, beh, in un certo senso è più vicina alle banche, possiamo dire. Vabbè, quello tutte e due, poi tutta cosa della stabilità finanziaria... Vabbè. Invece dall'altra parte cosa c'è? Nel ci senso sono... che è un po' una roba che, cioè, a volte è un po' meglio l'instabilità, basta saperla, almeno uno agisce, perché sotto questa coltre della stabilità bancaria si è passata la qualsiasi. Ecco, quindi, si dice. Mentre l'Unione Europea invece la DG Commissione, la Commissione ha che obiettivo? Il DG Comp si occupa l'Unione Europea si occupa di guardare se gli stati nell'occuparsi delle crisi bancarie siano più o meno, diciamo, si attengano più o meno alla normativa che impedisce dal 2013 a tutti gli stati europei di usare soldi pubblici dei contribuenti per salvare le banche. L'ho tagliata a breve, ma più o meno così. E quindi regola le condizioni attraverso le quali gli stati possono usare soldi pubblici per salvare le banche. E io adesso vado al punto. Quello che i giornali hanno, chi capito meglio, chi capito peggio, ma ha fatto capire, soprattutto a chi ha interesse, titoli in mano di Vicenza e di Veneto, è questo. La GCOM pensa che non sia ancora abbastanza ben chiaro, poiché lo Stato non si può sobbarcare a perdite successive emergenti da valutazioni sbagliate delle condizioni del credito deteriorato, né lui fare ristori agli azionisti sulle obbligazioni, per essere chiari, bisogna che queste due banche spieghino separatamente molto bene ancora le cose. Tant'è che molti hanno scritto, qui c'è una richiesta di piani che si chiamano stand alone, appunto, separati sì, e allora, non per la allora, fusione. Diciamo che intanto noi interlochiamo anche col DigiComp, questa cosa qui gliel'abbiamo chiesta, non ci hanno ancora risposto, però dalla stampa prendiamo che uno dei rilievi che avrebbe fatto la direzione competizione alle due banche, al tesoro, perché interloquisce col tesoro e con le banche, è che l'Italia aveva intenzione di fare una domanda per l'accesso alla ricapitalizzazione precauzionale di Stato per due banche fuse. DigiComp ha risposto, no, prima ci fate vedere che da sole passano il test di vitalità, sono solventi, e siccome sono solventi allora poi potete chiedere il 32D della BRRD, che è l'articolo che regola l'aumento di capitale precauzionale. Potete chiedere e non necessariamente dovete ottenere, no, vabbè, diciamo però, che quella era potete una chiederlo. Allora il test di vitalità o solvency, chiamiamolo così, cioè che una banca sia solvente, è la necessaria condizione per ogni banca dal Monte Paschi alle due Venete per chiedere l'aiuto, cioè diciamo la ricapitalizzazione preventiva. Che non è un aiuto di Stato, intendo dire assolutamente è un prestito, è una messa a disposizione di risorse temporanea, precauzionale, che va restituita allo Stato che la fa senza prevedere possibili perdite, che invece vanno accollate agli azionisti e agli obbligazionisti. Il DigiComp, per dirla breve, dice, sentite, tutte le perdite che potete prevedere di prendere, ce le dite ora, esatto, perché quelle sono a carico dei vecchi azionisti e dei vecchi obbligazionisti. E non vi sognate neanche di mettere dei soldi dello Stato prima di aver portato il bilancio a mercato, perché se no non vi diamo niente. E la domanda sulla quale ci ospitiamo, perché torniamo tra un minuto, è che A quanto risulta dai conti, Siena, che è l'altro aumento del capitale precauzionale di cui stiamo parlando, di cui c'è il processo in corso e così via, Siena c'ha un cuscino di capitale aggiuntivo espresso da crediti fiscali di 5-6 miliardi, che in realtà dà una risposta chiara a questa domanda. La domanda è: ma Veneto e Vicenza ce l'hanno separatamente qualcosa che serva alla stessa funzione di analogo? Apparentemente parrebbe proprio di no. Torniamo tra un minuto. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della belva. Eccoci qui tornati in studio con gli allegri compari dei Conti da Belva, oltre Oscar, Mario, Carlo Alberto e c'è con noi Gianluca Codagnone di Fidentiis. Allora, ce l'hanno questa disponibilità aggiuntiva di capitale per fronteggiare davvero tutte le perdite le due venete? Allora, si discuteva adesso fuori onda con Carlo e con Mario, con te. Ci sono due tipi di problemi qui sulle due venete. C'è il rischio, diciamo così, da cause legali. E poi c'è il rischio business, cioè devo vedere cosa faccio degli NPLs, dei crediti incagliati, eccetera, eccetera. Allora, diciamo, il combinato disposto, che so che è una cosa che non... la somma dei due rischi potrebbe essere tale per cui sarebbe impossibile salvare queste due banche, cioè diciamo tenere queste due banche in continuità. Sì. E la ragione per cui il management delle due banche ha avviato un'azione di sta cercando fino al 22 marzo, ha tenuto aperte la possibilità di rimborsare parzialmente gli azionisti delle due venete con un rimborso pari più o meno al 15% delle perdite presunte e ottenere la cancellazione con quello di tutte le cause legali o almeno arrivare all'80% in modo da poter cancellare il potenziale rischio legale all'80% è una condizione necessaria perché ed è la ragione per cui non ci sono ancora forse i bilanci delle due venete. Esatto. Al 31-12, perché nella pagina rischi, se tu non sai a quanto contenzioso va incontro, non sai quanto devi accadere. Qualcuno deve scrivere una cifra e deve mettere una firma. E quindi vogliamo dire che la decisione qui sopra è importante, perché è una decisione distribuita che può incidere sul destino della banca. Allora, io ho fatto il calcolo così, ma è totalmente arbitrario e, come dicono a Bergamo, I have no idea. Però se le banche stanno proponendo 600 milioni di ristoro, quello è il costo totale, anzi hanno adesso deliberato 30 milioni a testa di fondo per gli azionisti disagiati in più, quindi 660 milioni, e quello equivale al 15%, vuol dire che il potenziale legale, diciamo teorico, costo del rischio è 3 miliardi e 6. Quindi con quella roba lì sul groppone è impossibile iscrivere rischi e segregare quindi capitale fino a quel accantonare punto. Accantonare capitale che possa coprire quel rischio. Se quel numero è giusto, ora quel numero adesso poi potrebbe essere sbagliatissimo, potrebbe essere alto, basso, non ho idea. Fatto sta che il management... giustamente, e le banche che hanno stanziato già 200 milioni dei 600 nei bilanci passati, 200 milioni dei 660 che occorrebbero, le banche stanno cercando di eliminare quel rischio, perché quel rischio, se non viene eliminato, rimane un ostacolo troppo grosso da superare. Allora, qua ti fermo, perché rivolgendoci a chi ha in mano azioni e deve decidere se non ha ancora aderito al ristoro, supplemento di riflessione. Vi è chiaro, l'avete sentito da Gianluca Codagnone, state attenti, perché così voi date, se non aderite, l'incertezza, il capitale necessario aggiuntivo è tale che il rischio che non otteniate niente perché esplode tutto diventa alto. Su questo tema specifico, come ragionare se avete i titoli in mano di fronte a questa richiesta? Questa settimana è uscito un post che a me è piaciuto molto e ho chiesto all'autore Raffaele Zenti, anche lui è tra quelli che sentiamo spessissimo in trasmissione, tra i fondatori di Advice Only, è responsabile del Financial Strategies Group, di venirci a ripetere esattamente la logica del suo intervento, perché l'ha fatto con una bella tabella per farvi capire qual è la logica che potete seguire, ponendovi però il problema di quali siano le conseguenze a seconda del tipo di scelta che fate. Grazie Raffaele di essere con noi oggi. Grazie a voi, buongiorno. Qual è il ragionamento che proponi a chi ha quel titolo in mano? Il ragionamento come dire, affonda un po' affonda i piedi nella teoria dei giochi, che sembra una cosa molto alta. In realtà è un ragionamento di credo di semplice, di buon senso. E cioè la cosa da osservare è che innanzitutto quello che è il payoff, cioè che cosa può succedere? Succede che se le cose vanno male, questa banca, queste banche rischiano il bail-in e i soldi non li vede, probabilmente non li vede nessuno, ecco, di questi azionisti che ritengono e probabilmente sono stati oggetto di una frode. Quindi il punto non è tanto l'etica o che cosa è giusto, cosa è bello, cosa vorrei, ma è come dire, il punto di vista è molto concreto, pragmatico e realistico. Quindi avendo in mente quelle che sono queste conseguenze, bisogna innanzitutto capire che la propria decisione di aderire o di non aderire a questa proposta di rimborso, che a molti sembra molto povera, ha una, appunto, la scelta collettiva ha un'importante conseguenza sulla banca. Cioè se tutti non aderiscono, quello che può capitare è che la banca finisca in un bail-in e i soldi sostanzialmente non li prenda nessuno, se ne prendono meno di quelli che gli hanno offerto. Mentre se tutti aderiscono, quello che succede è che le cose proprio vanno bene. Se chi ha la possibilità di vedere il blog, cioè, noi abbiamo fatto una tabellina, una tabellina a doppia entrata, sulle righe ci sono le azioni del singolo azionista che può aderire o non aderire al rimborso. Sulle colonne ci sono le azioni degli altri azionisti che sono nelle medesime condizioni, quindi anche loro possono aderire o non aderire. E nel centro, diciamo tipo giochino, ci sono nelle caselle centrali ci sono i probabili, se non ci siamo persi per strada qualche elemento di valutazione, ci sono i probabili esiti. È abbastanza semplice, se tutti aderiscono sia al singolo azionista sia agli altri, probabilmente non ci sarà un bail-in. Se nessuno aderisce, probabilmente ci sarà un bail-in, e se la maggioranza non aderisce, a prescindere da quello che fanno magari pochi, sarà un bail-in. Chiarissimo, quindi, chiarissimo. Quindi quello che al di là, diciamo, delle valutazioni etiche, perché in questi giorni, dopo che ho scritto mi hanno scritto un sacco, sì, lo so, ma non è giusto. Non è giusto, però posso dirti, però, Raffaele, che bisogna anche vedere, perché poi sai, non tutti gli azionisti con quei titoli sono uguali. C'è chi ha avuto un titolo perché doveva fare un mutuo e l'hanno obbligato a prenderlo. Sì, c'è chi sì, in sì. cambio di quei titoli ha avuto moltiplicatori degli affidamenti. Beh, su cui, insomma, ecco, io non li farei tutti vittime. Se posso dire una cosa, questa roba qui per cui non è giusto. Cioè, allora. Gli azionisti di qualsiasi cosa, dell'SRL sotto casa, di una banca o di della società della nonna, si assumono un rischio. Prendono il rischio di azionista. No, c'è capitale. Però, se c'è una truffa, vanno dai magistrati. Non c'è dubbio. Anch'io aderisco in pieno a questa cosa, perché altrimenti qui a furia di azzerare le classi di rischio per titolo e diciamo per le obbligazioni, per le azioni, il mercato è diventato una roba in cui la Croce Rossa, tutto deve essere garantito. Ma no. Però al di là di questo, cari ascoltatori, il messaggio di Raffaele Zente, spero che sia chiaro per tutti, vi dovete porre anche il problema delle conseguenze sulla banca, di cosa succede dopo. Non fermarvi, è troppo poco. Ecco, se posso infatti criticare Raffaele, l'altra volta ha fatto l'incentivo al free riding e francamente va precisato oggi che a fronte del chiarimento, sì, free ride, posso dire però free riding, cioè all'opportunismo sistematico, perché speriamo che gli altri aderiscono, io invece aspetto perché magari ottengo di più. La verità è che siamo in una condizione, e lo ha detto molto bene Gianluca, in cui entrambi i rischi, quello industriale, cioè sulle sofferenze, e quello legale, cioè sui rischi, abbiamo visto che per consentire di contenere il rischio legale, noi vi sentiamo a dire dovreste aderire. Resta il rischio poi invece relativo, il rischio industriale, se possiamo dire. E lì come siamo messi? Perché Unicredito ha tirato una riga, ha detto 25 sì. e non plus ultra. Se ti ricordi, stiamo parlando del tasso di abbattimento del valore nominale degli Unicredito ha tirato una riga sulla fino, cioè il pacchetto di sofferenze che vende Unicredito che sono 17 miliardi, che è dentro una società che si chiama Fino, viene venduto a 12,9 cents. Sì, quello che ha venduto un conto. Però adesso posso dire una cosa sulle sofferenze. Tutto sto discorso sulle sofferenze 20, 30, 51, 0. Cioè, sense rispetto a 100 di nominale. Esatto. Ogni sofferenza è una cosa un po' bella mamma sua, nel senso che bisogna guardare in un pacchetto di sofferenze che cosa c'è dentro. Cosa c'è? Allora, ci sono dentro prevalentemente crediti con garanzie reali, con dentro un immobile o qualcosa del genere. E noi delle Venete che sappiamo? O sono crediti unsecured. Allora, intanto per capirsi, quello che apprendiamo sempre dalla stampa, perché non è che ci sia un numero, sembrerebbe che il test di sopravvivenza delle banche venga condotto con le banche che devono superare diciamo lo scenario base dello stress test mantenendo un livello di capitale che deve essere almeno il 4,5%, e poi si fa riferimento, infatti si è fatto riferimento anche dopo il comunicato ufficiale del Montepaschi sui requisiti di capitale che gli hanno chiesto, si fa riferimento a una roba che si chiama, mi spiace questo purtroppo, la devo dire così, TCR, cioè Total Capital Ratio, che è quindi uguale a, diciamo per tagliarla ancora breve, alla classe di capitale definita come patrimonio netto più, facciamo così, diciamo, più i subordinati. Sì. Mettiamola breve, poi non è proprio così, ma mi perdonerete. Quindi sembra che quel requisito, invece, il numero che ipotizziamo noi, noi fidenti, quindi non sappiamo se è quello giusto, è che quel numero sia l'8%. Quindi, guardando se una banca passa il test di solvibilità col più stringente dei due criteri, 4,5 o l'8, perché a seconda delle banche che se hanno emesso tanti subordinati o pochi subordinati ce l'avranno o meno quell'8%. Marcando, diciamo, il bilancio a mercato e prendendo le perdite necessarie per avere in seguito la possibilità di le sofferenze di venderle, perché marcare il bilancio a mercato, da quello che capiamo noi, vuol dire fammi vedere che a quel prezzo lì delle tue sofferenze qualcuno c'è che te le compra. Che te le compra, in concreto. Qualcuno serio, non un titano risuscitato. Adesso non apriamo la questione a tranche, su. Non CDP, insomma, ecco, non perché non sono seri. Ma perché... CDP non era quello che doveva distribuire dividendi sontuosi. Caro Alberto! Va bene. Quindi, allora, quindi dare un prezzo alle sofferenze implica conoscere il mix di quei crediti incagliati, conoscere quanto collaterale c'è dietro, quante garanzie reali. Quindi non è che noi tutti, anche noi, abbiamo tagliato, diciamo, dei numeri facendo gli accantonamenti per tutte le banche. Però è un discorso un po' più delicato di quello lì, perché ogni banca ha un mix di sofferenze diverso. Quindi, però, diciamo che il settore è messo così: i crediti incagliati più o meno sono al 47%, tutti, cioè sofferenze, i cosiddetti crediti past due, che sono quelli che non vengono pagati da almeno 90 giorni, e quelli cosiddetti unlikely to pay, che sono i crediti che non sono ancora in sofferenza, ma quasi, diciamo così. Tutto il settore, che ha 360 miliardi di questi crediti incagliati, al 47% quei crediti li ha coperti. No. Quelli sono il numero lordo, che è il numero netto di quei 360 miliardi ai 200 miliardi. Tutte le banche italiane, di quei 360 miliardi, il 47% sono crediti secured, cioè quindi hanno una garanzia reale. Quindi tagliamo il numero a 180 miliardi. A fronte di quei 180 miliardi c'è un collateral di 218 miliardi, ok? Ora, è vero che il collateral, secondo una norma recente dell'anno scorso, diciamo, circolare dell'Unione Europea e dell'ICB, il collaterale si può mettere in bilancio solo fino al 100% della concorrenza del credito. Quindi, cioè, tu non puoi, se hai un credito di 100, chiedere 120 sull'immobile, cioè per tenerti 120. Se ricavi 120, i 20 li ridai indietro. Certo, quindi non puoi usare il collaterale di un credito per coprire altri crediti, cosa che qualcuno ha fatto, se non sbaglio, in Italia. Questi sono i numeri di settore, diciamo così. Se uno spacca quei numeri e pensa che le banche più o meno sono in media tutte esposte così, che è anche vero, un po', poi deve chiedersi, va bene, ok, ma un capannone in Veneto contro un appartamento in Monte Napoleone quanto vale? Esatto. Allora, e poi si va a vedere dentro le sofferenze che cosa è il collaterale, cioè cosa sono queste garanzie che abbiamo. E quindi si deve fare un'analisi, che è la ragione per cui dire il prezzo delle sofferenze delle Veneto del Montepaschi è 20, 31, 53 è una roba che, boh, o uno è andato a vedere bene cos'è, oppure è una roba arbitraria. Però, siccome è difficile andare a vedere cos'è, perché? Perché le banche per anni i documenti relativi... No, cartaceo, però questo l'abbiamo spiegato molto. Okay. Ergo, secondo te? Ergo, secondo me, noi abbiamo provato a fare questo test di vitalità sulle Venete e abbiamo cercato di vedere se sia unite che separate avevano capitale a sufficienza per marcare le sofferenze a 80, cioè per ipotizzare un valore di cessione delle sofferenze a 20 e marcare i cosiddetti unlikely to pay a 60, perché gli unlikely to pay sono marcati a livello di settore a 40 più o meno, tutto il sistema bancario. Noi abbiamo ipotizzato che di fronte a uno scenario di risoluzione o di ricapitalizzazione di Stato succeda che molti di quegli UTP migrino a sofferenza e quindi abbiamo preso quindi avrete tentato uno scenario di ragionevole maggior pessimismo possibile, esatto. Perché la risposta a questa domanda ce l'hanno davvero queste cose? Allora, sia in grado di rispondere, allora, rullo di tamburi cari ascoltatori, alla risposta le due banche separate, secondo noi una delle due ce l'ha la possibilità di passare, l'altra non siamo sicurissimi, diciamo così, e mentre unite ovviamente ce l'avrebbero, perché... Allora il problema separato esiste, cari ascoltatori. Non siamo ancora al punto di dirvi che l'ombra del Belen. Però questo se sì. Quei rischi legali sì, di cui parlavamo, rischi legali non sono messi da parte. Quella è la precondizione. Perché allora, altrimenti non diamo il messaggio. Ci dovremo aggiornare ancora una chi settimana. Chi si aspetta di venire ristorato di più sta facendo correre al sistema un grave rischio. Non è un invito ad aderire, è solo un invito alla consapevolezza. Torniamo tra qualche minuto. Della belva. Eccoci qua, è la musica felliniana di 8:30, perché 8:30 adesso tutti dite 8:30 la Gruber, la Set, no, 8:30 Fellini, scusate, adesso va bene, con tutti i meriti da riconoscere a Cairo e l'amico Gruber, però insomma questo è Fellini. Ma perché questa settimana? Perché adesso facciamo arrabbiare il nostro amicissimo Udo Gumpel, perché questa settimana io ho visto un articolo dello Spiegel che mi è piaciuto tantissimo, la settimana nel quale il Consiglio d'Europa richiama l'Italia al fatto che noi non rimpatriamo abbastanza i profughi che non hanno titolo per stare in Italia. Lo Spiegel scrive un meraviglioso articolo in cui dice: beh, insomma, in Germania al 31 dicembre 2016 ce ne sono 207.000, qua un mucchio di governi locali, quasi praticamente tutti quelli a governo, SPD e Grünen, assolutamente non ci pensano proprio a rimpatriarli. E in più la Germania, nei rapporti ultimi con la Tunisia, con il Marocco, con l'Algeria, muri eretti contro gli accordi necessari per rimpatriarli. Insomma, neanche la Germania li rimpatria. E io lo dico però senza nessuna soddisfazione, perché vorrei semplicemente che questi problemi si affrontassero al di là delle gare nazionali e degli indici puntati. Però quell'articolo mi ha fatto in effetti molto, molto, molto riflettere. Udo Gumpel, grazie di essere con noi. Non. Grazie a te, caro. Volevo comunque sentire subito la tua voce. Uno, perché non sei in sciopero? Mi sembra che tutto il Sole 24 Ore sciopera. No, abbiamo spiegato all'inizio. Lo sciopero è la carta stampata, il CDR Radio. No, volevo chiedere se avevo una buona chance di chiedere di fare il direttore. Per questo, guarda, io ti invito a inoltrare la disponibilità all'azionista e se vuoi io faccio il coro per te. Però sai, l'azionista... Ci sarà un processo di selezione trasparente e basato sui meriti, come ben sappiamo. Caro, se tu mi fai il coro sono già fuori, no? Esatto. Perché sei uno fuori coro, e infatti, no? Hai sbagliato sostenitore da questo punto di vista. Ecco, esatto. No, oddio, dovresti osteggiarmi per farmi avere. Se vuoi, dico che sei il peggior direttore necessario al Sole 24 Ore. Dai. Ma allora magari così riacquisto qualche chance. Esatto. Ti farò campagna contro. Ecco, bravo, bravo, ci organizziamo. Però tu hai perfettamente ragione, come purtroppo quasi sempre hai perfettamente ragione. Questo quasi ci metto giusto per vizio. Giusto, no? Perché, giusto. È perché hai colto nel segno, come al solito, perché la Germania ha all'incirca 500.000 persone che non sono nate in Germania, che teoricamente, secondo la interpretazione rigorosa della legge tedesca e dell'asilo, non avrebbe diritto di stare in Germania. Secondo le regole più umane, delle regioni, come tu hai detto, in realtà le regioni che sono responsabili delle espulsioni o dei rimpatri, come li dovremmo chiamare più correttamente, non li vogliono rimpatriare. La Germania l'anno scorso ha rimpatriato circa, mettiamo, 25.000 persone, che erano persone, gran parte di queste persone venivano dai Balcani, dunque paesi con i quali la Germania ha rapporti diplomatici, oppure l'Afghanistan ha preso un qualche centinaio. Tutti gli altri paesi rifiutano di riprendersi i loro rifugiati, migranti, e come ben sappiamo anche nel caso del famoso ormai terrorista Anis Amri, che era tunisino, e la Tunisia lo sapeva benissimo. Voi sapete tutti quando la Tunisia ha accettato di riprendersi questo criminale, un giorno dopo l'attentato di Berlino. Ha detto, ah sì, forse tunisino ce lo riprendiamo, sì, in una cassa da morti ve lo possiamo dire. Che peraltro adesso in Italia non è anche stato rispedito in Tunisia, dunque neanche da morte si prendono i loro cari e anche normali migranti, ma neanche quelli criminali o sospetti di terrorismo, perché sono ben contenti che siano andati. Questo è un problema che accuma tutti i paesi europei, però io volevo arrivare in realtà a un'altra cosa completamente diversa. Dovremmo in realtà impedire il lavoro dei trafficanti, e su questo ho una cosa molto importante, ho imparato una cosa molto importante, perché sono fino a dicembre stato 2 settimane a bordo della nave Miraglia tedesca, di una fregata Mecklenburg-Vorpommern, a bordo della quale loro hanno fatto un viaggio di 4 mesi sempre lungo i confini delle acque territoriali libiche, ovvero a 12 miglia dalla costa, e noi abbiamo visto, in realtà loro mi hanno dato tutti i dati per capire da dove vengono questi 160.000 che sono arrivati in Italia. E da dove vengono? Vengono da 2 spiagge, una da est, una ovest, da Tripoli. Non vengono dalla terra dell'ISIS, dunque non gestisce l'ISIS questa roba. Non vengono dalle terre vicine all'Egitto, ma esclusivamente da quella zona che è governato da quel governo fantoccio amico nostro, quello che è stato messo in sella a Roma sotto la presidenza. Vengono dall'area di costa controllata dagli emissari di Sarraj. Esatto, bravo. Ah, vengono da l'amico dell'Italia. Chilometri. Sì, esatto, ma anche all'amico dell'Europa, perché tutti hanno anche dell'America. Sì. Tutti hanno detto questo, l'unico governo che rappresenta la Libia, e quelli ci mandano. Ma l'evidenza che hai, che ti hanno dato a bordo della fregata tedesca che fa parte del dispositivo comune del Mediterraneo, sì, davvero solo di là e non da parti controllate da Haftar? Da Haftar, che è invece il campione della Russia, dell'Egitto, eccetera. No. No, Haftar ha un controllo perfetto delle sue acque territoriali. Ho parlato con ufficiali inglesi, olandesi e di tutto genere, che sono tutti là. Non viene nessuna nave da lì, non viene dal Golfo di Sirte, dove c'era una volta un piccolo insediamento. Siamo amici del trafficante di carne. Bravo. E loro, pensate che loro, cosa succede? Partono dalle spiagge di ex alberghi, dunque sulla nave tedesca, io non posso adesso dirvi troppo di dettagli, certo, però si sa benissimo, addirittura nome e cognome, quando li cominciavano ad intercettare questi trafficanti, dicevano, ah, c'era Mahmoud, ma oggi Mahmoud è in servizio di trafficante, non era ieri Mohammed, ah no, Mahmoud fa solo venerdì santo, non viene, capito? Cioè, robe del genere. Assurde, si sa con perfezione chi sono i trafficanti, perciò la fregata, come li ha detto, però quelli lì mandano non più barche, perché voi sapete le barche non ce l'hanno più. Certo, loro hanno solo gommoni, certo, che fanno 10-12 miglia nautiche giusto per arrivare alle cosiddette grandi navi grigie. E quello che dicono a questi poveracci migranti, che pagano $200, una volta costava $3,000 il passaggio, perché erano 150 miglia nautiche verso Lampedusa, adesso devono fare 10-12 miglia, gli danno giusto 3-4 litri di nafta, e poi dicono, loro avvisano dalla spiaggia le navi di guerra, dicono arrivano i nostri, e allora i nostri prendono come un servizio taxi, cioè non ha nulla a che vedere con una vera fuga da fare. No, certo, quelle persone, vogliamo anche distinguere questo problema, sono persone disperate, sono persone che magari hanno vissuto, no, ma adesso scusa un secondo, no, però quelle persone si sono affidate ai trafficanti che sono protetti dal governo di Tripoli, e quelli lì li portano alla fine delle acque territoriali. E se ogni volta che muore lì della gente, perché ha cambiato il vento, perché i trafficanti non hanno visto secondo, ci dobbiamo fermare un secondo per il traffico, però torniamo. Ma il punto, di là dei disperati, eccetera, il punto è, sono amici nostri. Cioè, questa roba avviene con la totale consapevole collaborazione dei nostri governi, questa roba che stai dicendo. È pazzesco. Traffico. Axerta, indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò, sì! I conti della Belva. Eccoci qua, tornati in studio in questa parte finale della trasmissione con Udo Gumpel, che ci ha dato una notizia. Cioè, i giornali italiani, che i flussi vengano solo dalle coste controllate da Sarraj, il candidato europeo e italiano al governo libico, contro Haftar, che è il candidato sostenuto dai russi e dai francesi e dall'Egitto, questa notizia qua non era uscita, Udo. Ma io l'ho trovata in qualche rifuso di qualche articolo che parlava vagamente di questo fatto, però io ho visto le mappe, che poi peraltro le ho anche pubblicate in un servizio sulla nostra homepage della rete NTV, NTV e anche in RTL, e che la fregata tedesca, che è stata lì mesi davanti alle coste, ha visto esattamente quello che avviene. Io sono sicuro che anche gli altri, anche le altre navi militari inglesi, francesi, olandesi, e soprattutto anche i mezzi inglesi che usano loro ricognizione aerea, sanno benissimo esattamente la stessa cosa. Mentre le navi militari pescano poi questi gommoni, che non raggiungerebbero mai Lampedusa, perché da lì dista 150 miglia nautiche, e vengono pescati al limite dell'acqua territoriale, le NGO e quelle associazioni di volontari che vogliono salvare la gente li pescano anche all'interno delle acque territoriali, perché evidentemente c'è una gara di arrivare alla spiaggia. Forse sarebbe più facile di approdare direttamente alla spiaggia, così uno leverebbe questi 40 milioni di dollari che i trafficanti prendono dai 160 mila che hanno portato. Però è diventato, no? Un accesso legalizzato diretto, così. Ma non neanche l'accesso lo controllano i trafficanti. Ma lo controllano i trafficanti, ma nel senso che noi ci siamo messi lì. Noi gli facciamo il servizio. Capito, gli facciamo il servizio. Li vediamo che partono, dico venite qua. Dunque è una cosa ridicola che il governo amico nostro europeo, no, che è stato messo in sella in una bella riunione alla Farnesina, tante di quelle cose del tipo, io ho visto 200 capi tribù, no, dei quali di sicuro la metà erano, è una roba assurda. E poi se tu adesso fai anche addestramento della cosiddetta Coast Guard libica, quelli scortano evidentemente i barconi fino alle acque territoriali libiche e poi dicono ciao. Di sicuro prendono anche loro una parte del guadagno, lo sapevamo anche da altre situazioni, non sono illazioni, sono esperienze, certo, che hanno fatto anche i medesimi migranti, perché ai migranti viene detto, quando vedete sull'orizzonte queste grandi navi grigie, ovvero le nostre navi militari, siete in Europa, no cari miei, siete lontani da Europa, però per il traffico dei traffici, cioè è diventato un affare senza rischio, perché oggi di 12 miglia costano 200 euro, quando dovevano ancora prendere le barche vere, che però oggi non ci sono più, mentre il numero dei comuni è infinito, questa cosa non starebbe in piedi senza un accordo esplicito tra governi europei. Mi fa accapponare la pelle che sia così. e soprattutto non può continuare così. Quindi ancora oggi uno comunque, come vedete voi che l'ho criticato dicendo la voce della Germania, no, è un giornalista che fa il suo mestiere, ci ha dato una cosa che i giornali italiani non ci hanno spiegato in questi termini. Io ringrazio i compari Conti da Belva e ringrazio voi che siete in ascolto, ringraziamoli, ringrazio Mario, Carlo Alberto e anche Gianluca Guadagnone, che oggi vi lascia un altro punto interrogativo, perché noi continueremo a seguirla la vicenda delle due Venete, non vi preoccupate, fino alla fine, qualunque essa sia. Ecco, mamma mia ragazzi, ecco, un po' di ottimismo, dire fino alla fine a un milanista continuare con la 24, appuntamento come Alessandro Mina lunedì alle 8:20.